principio fu una questione elementare. L'uovo si fece animale ed iniziò a cantare. Canta che ricanta, si mise a generare. Il suono si fece normale. Canta che ricanta, si mise a generare. Il suono si fece normale. Respiro, ad ogni passo nasce il pensiero.